Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti e tutti, da Frey e Olga. Buon pomeriggio e ben ritrovati su Van Loon. Invadiamo il 103.1 con la nostra, anzi, vostra mezz'ora di storia settimanale. Bene, oggi non vi raccontiamo proprio un evento del passato, un anno o un movimento, e non intervistiamo qualcuno. O meglio, non intervistiamo direttamente qualcuno. Qualcuno in effetti lo facciamo parlare anche in questa puntata, dando voce ad alcuni autori di romanzi che si sono misurati con quello che noi chiamiamo il mestiere dello storico. A quanto pare la storia e le storie, la polvere degli archivi, i racconti lunghissimi dei testimoni non piacciono solo a noi, e infatti vedremo come alcuni scrittori hanno fatto del lavoro di ricerca e dell'indagine storica, in generale, il focus dei propri romanzi, aprendo così la cassetta degli attrezzi di chi fa storia. Nella puntata di oggi vi parleremo di tre romanzi in particolare che strizzano l'occhio all'investigazione storica, ai limiti della storiografia che spesso ci sono naturalmente, mescolando con fantasia e ironia fiction e non fiction, storia e invenzione. Ci accompagneranno in questo viaggio una scrittrice inglese, Josephine Tay, un maltese, Joe Sacco, e uno spagnolo, Javier Cercas. Anche in questa puntata vi proponiamo un concept album. Racconto di storia, racconto della storia. Il nome adatto è Lyndon Kwesi Johnson, poeta dub anglo-giamaicano che ha iniziato a scrivere e a far musica durante i Black Riot inglesi di fine anni 70. Di Lyndon Kwesi Johnson vi proponiamo Making History, album del 1990, che è una sorta di atto d'accusa verso la storia dell'uomo bianco. Iniziamo l'ascolto proprio dalla title track, Making History. Now tell me something, Mr. Government Man, tell me something. How long you really feel you coulda keep we under heel when the truth done reveal about how you grab and steal, about how you make your crooked deal, make your crooked deal, eh? Well down in Southall, where peach did get fall, the Asians them farm up a human wall against the fascists and them police shield, and them show that the Asians got plenty zeal, got plenty zeal, got plenty zeal. It is no mystery, we're making history, it is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history, it is no mystery, we're winning victory. Now tell me something, Mr. Police Spokesman, tell me something. How long you really think we woulda take your button lick, the jackboot kick, the dirty bag of trick on your racist politics, your racist politics, eh? Well down in Bristol, they had no pistol, but them chase your Babylon away. Man, you shoulda see your Babylon, how them really run away. You shoulda see your Babylon, them pick up that day, pick up that day, pick up that day. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. Now tell me something, Mr. Right Wing Man, tell me something. How long you really feel we woulda gravel and squeal when so much murder conceal, when we wound can't heal, when we feel the way we feel, feel the way we feel, eh? Well there was Toxtet and there was Masside, and a lot of other places where the police had to hide. Well there was Brixton and there was Chapeltown, and a lot of other places that was burned to the ground, burned to the ground, burned to the ground. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. Partiamo con il nostro viaggio attraverso i romanzi che raccontano storia da un episodio concreto. L'idea di questa puntata mi è venuta infatti leggendo un romanzo che avevo acquistato da una bancarella a Napoli. Leggendo questo romanzo che ho scoperto veramente questa maniera di raccontare il fare storia. Il romanzo scelto è un giallo della collana Giallo Mondadori, la celebre collana del giallo italiano, a cui non avrei dato molta fiducia avendolo acquistato per pochi spicci, ma che mi aveva incuriosito soltanto per il fatto che si trattasse di un giallo che aveva a che fare con la storia. Il romanzo di cui stiamo parlando è La figlia del tempo di Josephine Tay, scrittrice di gialli britannica che aveva raggiunto una certa celebrità in Gran Bretagna negli anni 30 e che con La figlia del tempo aveva firmato uno dei suoi ultimi romanzi prima della morte. Se volete, il libro oggi è stato ripubblicato nel 2015 sempre dalla Mondadori in una comoda edizione economica che assieme alle altre fatiche editoriali della Tay. Il romanzo inizia raccontandoci del poliziotto Alan Grant, obbligato a letto a causa di un incidente nel corso di un arresto. Per ingannare le lunghe ore in posizione prona, viene invitato da un'amica a mettere alla prova la sua capacità fisionomica con alcune riproduzioni di volti conservati alla Galleria dei Ritratti della National Gallery di Londra, cercando di indovinarne i caratteri e il pensiero. Un ritratto in particolare aveva attirato la sua attenzione. Questo aveva un'espressione combattuta, uno sguardo intenso. Vedendolo l'avresti detto che fosse una persona che soffriva, sicuramente non un criminale. E invece, direttamente dalla seconda metà del 400, scopriamo che quell'espressione combattuta appartiene a Riccardo III, il re assetato di potere che per giungere alla corona non esitò ad uccidere i legittimi eredi al trono, cioè i due principini che erano stati rinchiusi nella Torre di Londra e che abbiamo conosciuto nella tragedia di Shakespeare. Come mai il sagace poliziotto Grant si è sbagliato in modo così plateale? Inizia così la sua indagine all'interno della storia, che si scontra immediatamente con i luoghi comuni che sono dati anche all'interno del romanzo. Chiunque, parlando di Riccardo III, lo ricorda come un criminale per tanti motivi diversi. Tanto i manuali di scuola, quanto i libri di storia e persino le opere di Thomas More, Tommaso Moro, riportano tante versioni di questa storia drammatica, limitandosi però a raccontarci voci e pettegolezzi. Diciamo pure che iniziarono a circolare circa 20 anni dopo la morte di Riccardo III, che poi sarà ricordato come questo re sanguinarissimo. Come spiegare il successo e la persistenza di queste storie? Andando avanti nell'indagine, infatti, si scopre che Riccardo III è un monarca illuminato e poco interessato al potere e sicuramente molto più impegnato nel cercare di chiudere il lungo conflitto fra York e Lancaster, quello che noi nella storia conosciamo come la Guerra delle Due Rose. Perché allora è sempre stato additato come un folle disposto ad uccidere i propri familiari per raggiungere la corona? Alan Grant è stupefatto. Il personale dell'ospedale con cui condivide i risultati della sua ricerca, neanche di fronte all'evidenza delle prove dell'indagine storica, è disposto a credere all'innocenza di questo Riccardo III. Com'è possibile allora che si preferisca dare ascolto ad una credenza piuttosto che alla storia? La spiegazione gli arriva da Carradine, uno studente americano che si dedica alla ricerca per allontanare i ritorni in madrepatria. Si tratta di un evidente esempio di Tony Pandy. Che cos'è Tony Pandy, Frey? Ci chiediamo e si chiede l'incredulo poliziotto. Allora, ce lo dice sempre il buon Carradine. È il nome di una cittadina del Galles in cui nel 1910 il governo eseguì una repressione spietata nei confronti dei minatori in sciopero. Winston Churchill, allora ministro dell'interno, inviò addirittura l'esercito contro il corteo per i diritti e ordinò il massacro dei minatori. Nella pratica però lo scontro non fu altro che una baruffa, fra l'altro con la polizia di Londra disarmata, come tante ce ne sono nel corso delle mobilitazioni, non quel massacro di cui si è tramandata memoria. Sulle pagine inglesi di Wikipedia, per esempio, si legge che è stata uccisa una sola persona, fra parentesi chiaramente quel sola, e che i feriti però furono svariate centinaia. Prosegue Carradine, e citiamo qua delle pagine di Josephine Tay. Dal primo all'ultimo di quelli che si trovavano là, sanno benissimo che la storia è tutta una frottola, e tuttavia la versione non è mai stata contraddetta. E la smentita non verrà mai più. Una storia completamente falsa è cresciuta fino a diventare una leggenda. Un Tony Pandy, quindi, si può definire anche la leggenda che circola attorno a Riccardo III. Per smascherare questo Tony Pandy, Grant si mette ad indagare come un poliziotto nella storia, credendo anche di riuscire meglio degli stessi storici. Come mai questa convinzione? Ci viene fornito un gustoso ritratto degli storici secondo il nostro poliziotto, che afferma: «Io gli storici proprio non li capisco. Sembra che non si curino minimamente della verosimiglianza, fra virgolette, di una situazione. Vedono la storia come in una lanterna magica. Tutte figure a due dimensioni, contro uno sfondo piatto e distante», rincalza l'amico Carradine. Forse, quando uno è alle prese con vecchie cartacce ingiallite, non ha tempo di interessarsi degli esseri umani. E non parlo soltanto dei personaggi storici, ma della gente in generale, fatta di carne e sangue, e al modo come reagisce alle varie circostanze. Ci ascoltiamo The Eagle and the Bear, sempre da Lyndon Kwesi Johnson, sempre da Making History. The eagle and the bear are people living in fear of impending nuclear warfare. But as a matter of fact, believe it or not, plenty people don't care whether it's imminent or not. Or first one to attack or if the human race I go survive or not. For those some is aware, them life already coming like a nightmare. And you can see it everywhere, the famine and the fear, the doubt and the drought, desperation and despair. And you can see it all around, the massacres abound, dead bodies all around, the atrocities abound, missing persons can't be found, dictators get the throne, new clowns are quickly found. The eagle and the bear are people living in fear of impending nuclear warfare. But as a matter of fact, believe it or not, plenty people don't care whether it's imminent or not. Or first going to attack or if the human race are going to survive or not. For those some is aware, them life already coming like a nightmare. Torniamo su Walloon con la vostra mezz'ora di storia su Radio Città Fucico. Abbiamo appena parlato di Riccardo III e delle corti inglesi. Nel romanzo La figlia del tempo di Josephine Tay. Ma ci spostiamo sia di zona del mondo sia di periodo storico. Il libro che vi andiamo a raccontare non si colloca nella grande storia dei personaggi, ma in quelle che lo stesso autore, il fumettista maltese Joe Sacco, chiama note ai margini della storia. Cercando tra le pieghe dei grandi eventi e della storia ufficiale, andiamo quindi a sfogliare il fumetto di Joe Sacco, Gaza 1956, note ai margini della storia, edito da Mondadori, Strade Blu 2010. Nella prefazione troviamo già alcune informazioni sul processo che ha portato alla creazione di questo libro. Sacco si trova come corrispondente a Khan Yunis, cittadina nel sud della striscia di Gaza, nella primavera del 2001 e lì ha iniziato a documentarsi su una storia di cui aveva letto un libro di Noam Chomsky. E la storia è questa. Nel 1956, nel corso della crisi di Suez, gli israeliani eseguirono un massacro di civili su larga scala tra la popolazione palestinese. Ci furono 275 morti, contati dalla relazione della successiva commissione d'inchiesta ONU, giustificati dall'esercito israeliano come una reazione da parte dei soldati ad una fuga incontrollata della popolazione, durante una banale procedura di controllo per trovare dei soldati egiziani. È possibile? È possibile spiegare un numero così alto di vittime tra la popolazione con delle parole così sintetiche come quelle riportate dai rapporti dell'ONU? Nel corso delle interviste su questa storia, Joe Sacco incappa in Abdel El Azouz El Rantisi, ufficiale di Hamas che nei giorni della strage aveva 9 anni e lega il ricordo di quegli eventi all'uccisione dello zio. Queste sono le parole che consegna Joe Sacco. mi lasciò una ferita nel cuore che non potrà mai guarire. Solo a raccontarlo mi viene da piangere. Una cosa del genere non si dimentica più. Hanno piantato l'odio nei nostri cuori. Eccolo il legame con il presente. Ma la storia? Gaza 56 nasce quindi come una ricerca forsennata nel passato per cercare di delineare un fatto, derubricato come una nota al margine di un fatto più importante e noto, ovvero la crisi di Suez, che avrebbe potuto condurre il mondo verso un nuovo conflitto mondiale, ma che invece avrebbe giocato un ruolo chiave nell'esplosione del conflitto tra Israele e Palestina. Gaza 1956 racconta questo viaggio attraverso la memoria della striscia di Gaza e Sacco inserisce tutti gli elementi che servono per capire come si racconta e come si scopre una vicenda legata al passato. Incontri con testimoni che non ricordano bene, vittime scampate a vicende recenti, costruzioni della memoria. Il cuore però è forte. La popolazione maschile, fra corse sotto le bastonate dei soldati israeliani, spari sopra la testa ed esecuzioni sommarie, che viene convogliata nella scuola di Gaza e lì interrogata per scoprire dove si nascondessero i soldati palestinesi che combattevano con gli israeliani. Immagini costruite alla memoria, ma non per questo meno interessanti. Un esempio su tutti, il ricordo condiviso da tutti i testimoni di due colombe che dopo aver volato sulle teste dei prigionieri si posarono sulle spalle dell'ufficiale israeliano che avrebbe intimato il rientro a casa. La matita di Sacco riesce a far fluire la storia e il suo racconto, dando immagini e volti alla storia con la S maiuscola, dandole un significato concreto, permettendoci di vederla. Tavole che rappresentano una massa di uomini piegati vista dall'alto, con le teste coperte dalle mani, o ancora una massa umana che ora corre, di cui possiamo scorgere ogni viso, ogni vestito che si precipita per saltare il muro della scuola, facendoli infine cadere. Non solo Sacco ha raccontato una nota a margine, ma l'ha fatta rivivere. Sempre nella prefazione, Sacco dice: «La mia ricerca non si è svolta nel nulla. Mentre stavo indagando su quanto accadde nel 1956, gli attacchi israeliani uccidevano i palestinesi, gli attentati suicidi uccidevano gli israeliani e altrove, in Medio Oriente, gli Stati Uniti stavano preparandosi per la guerra in Iraq. Come mi ha detto qualcuno a Gaza, i fatti sono sempre in movimento. Passato e presente, però, non si possono separare con tanta disinvoltura. Sono parte di un ineluttabile continuum, di un fondersi storico». Sempre dall'album di Linton Kwesi Johnson, Making Ink Story, in cui stiamo facendo un viaggio, ci ascoltiamo Reggae di Radni. You know, see how the cloud them just come sat up on me dream. Sit up on me dream like a dark silk screen. A dark silk screen over the vision I had seen. The vision I had seen. The vision I had seen. Some may say that Walter Rodney was a victim of hate. Some may say that him gone through heaven's gate. Some we said that Walter Rodney shouldn't take up his true weight and go carry it on him back like him did wear him on a rock. But look how the cloud I'm just come sat up on me dream. Sit up on me dream like a shout or a scream. A shout or a scream or a really ugly scene that awake me from the dream and alert me to the scheme. Some may say that Walter Rodney was a prisoner of fate. Some may say that him gone through the hero's gate. Some may say that Walter Rodney couldn't take his true weight, so him take it off him back and go put it on him lap and go fall in a trap and so burn him get it drop. But look how my dream come just get blown to smithereen. Blown to smithereen in the middle of the dream. The middle of the dream before the people them come in. The people them come in. The people them come in. Some may say that Walter Rodney was no shark for the sea, and all that him did want was to set him people free. With the workers and the peasants, him should have cooperated, but like a fish to the hook, him go bite from burn and bait. You know see how my dream come just get blown to smithereen. Blown to smithereen in the middle of the dream. The middle of the dream before the really crucial scene. The really crucial scene when the people them come in. Ritorniamo sulle frequenze di Radio Città Fujiko, siete con Ballun, la vostra mezz'ora di storia. Cambiamo ancora zona, eravamo rimasti a Gaza nel 2001, ma nel 1956 con Joe Sacco, il fumettista Joe Sacco. Adesso cambiamo di nuovo, sia zona sia periodo storico. Andiamo in Spagna, siamo nel 1936 e la guerra civile è appena scoppiata. Seguiamo le avventure di un falangista della prima ora, Rafael Sánchez Mazas. Più che un falangista, l'ideatore e l'ideologo di quella che sarà la dittatura franchista per 40 anni. La storia di quest'uomo, praticamente sconosciuta e più, ce la racconta Xavier Cercas, scrittore catalano, classe 1962, nel libro Soldati di Salamina, edito da Guanda nel 2002. Cercas, in crisi dopo un successo editoriale, sbarca il lunario scrivendo per un giornale locale di Barcellona. Ha deciso però di appendere la penna al chiodo per la mancanza di ispirazione, fino a quando intervista un certo Rafael Sánchez Ferlosio, che gli racconta sbadatamente la storia della fucilazione, anzi la mancata fucilazione di suo padre, Sánchez Maza, in fuga dai miliziani antifranchisti che prima dell'assedio di Barcellona avevano tentato il tutto per non perdere una guerra che ormai era persa. Sánchez era stato catturato e destinato a morte certa con altri camerati, ma nel trambusto dell'esecuzione riesce a scappare, rifugiarsi in un bosco e nascondersi. Ad un certo punto, però, viene trovato da un miliziano. Questo lo fissa e alla domanda dei compagni che gli chiedono se ha trovato qualcuno, lui risponde no. Sánchez, per motivi oscuri, era stato salvato. Dopo aver sentito questa storia, Cercas si appassiona alla vita del falangista. Scopriremo, sfogliando le pagine del libro, che Cercas ha cercato di ricostruire minuziosamente i dettagli della vita del suo personaggio, tramite interviste, materiali d'archivio, le sue poesie e racconti scritti tra gli anni 20 e gli anni 40 e la sua carriera politica a regime appena instaurato. Scopriamo che Sánchez era nato a Madrid e cresciuto nella ricca borghesia di Bilbao. Era diventato anche un poeta di discreta fama. Aveva vissuto in Italia per 7 anni, era entusiasta di Mussolini, aveva aderito completamente agli ideali e allo stile fascista ed era soprattutto desideroso di portare anche nella sua terra la rivoluzione fascista, insieme al suo intimo amico José Antonio Primo de Rivera. Cercas ci racconta come ha ricostruito la vicenda e come l'ha trasportata nelle pagine del libro, di quanto sia difficile investigare il passato, specialmente se quel passato ha a che fare con un periodo buio della storia contemporanea spagnola, specialmente se quel passato parla di quei personaggi che dal nostro punto di vista potremmo definire come i cattivi, ovvero coloro che hanno instaurato un regime dittatoriale. Le avventure di Sánchez Mazas sono ricostruite da Cercas con una dichiarazione di intenti. Ciò che di seguito riferisco non è quello che realmente accadde, bensì ciò che verosimilmente si ritiene sia accaduto. Non posso riportare fatti comprovati, ma ragionevoli congetture. Marzo 1936. È possibile che questi fatti siano accaduti? Sì, forse. Un ricercatore certo non avrebbe mai potuto scrivere una simile premessa ad un libro che si ritiene sia scientifico, ma questa è la forza del romanzo. Da Manzoni in poi, dopo aver passato molto tempo ad indagare il passato, uno scrittore, non uno storico, si prende la libertà di scrivere fatti verosimili, che ci dicono qualcosa di somigliante alla realtà, con dettagli forse inventati, forse no. Dopotutto, è quello che diceva anche l'amico del poliziotto Grant all'inizio di questa puntata. A volte la storia non guarda a uomini e donne in carne ed ossa, ma solo le carte ingiallite. Ed è per questo che i romanzi ci piacciono e ci appassionano, eludendo la realtà, ma facendola sembrare reale, proprio come ha fatto Cercas con il suo personaggio. Siamo alla fine di questa lista. Avremmo potuto citare altri romanzi, come ad esempio L'impostore, l'ultimo romanzo pubblicato sempre da Xavier Cercas, e perché no Paco Ignacio Taibo, secondo, che con Alamo ha fatto lo stesso lavoro. Magari torneremo sull'argomento e leggeremo assieme altri libri. Quello che ci interessava raccontarvi erano 3 romanzi che possono permettere a tutti di capire, anche chi non è addetto ai lavori, come si fa una ricerca storica. Appunti, ipotesi, testimoni da sentire, qualche vecchia carta d'archivio che può raccontarci una storia o semplicemente darci un indizio. Il mestiere dello storico, come l'ha definito Mark Bloch nel suo seminale Apologia della Storia, alle volte è difficile da conoscere leggendo solo un saggio. Nelle note a più pagine hanno riuscito a cogliere le lunghe ore passate ad investigare e a ricostruire i fatti, che se richiedono un certo metodo sono anche guidate da curiosità e passione. Le divertenti e curiose indagini dal letto di un ospedale del poliziotto Grant o lo scavo metodico nella dolorosa memoria del popolo palestinese di Joe Sacco o la caccia al fuggitivo nel passato messa in campo nei soldati di Salamina rendono con uno stile più comprensibile come si fa storia e quali sono le giornate, a volte diciamo un po' noiose, degli storici e delle storiche. Bene, siamo arrivati in coda alla nostra puntata, vi lanciamo l'appuntamento sabato prossimo in cui presenteremo una nuova rubrica, quella di un classico alla radio, e parleremo di un libro di storia con un libro, con uno storico che parla di un libro non scritto da lui, ma lo scopriremo sabato prossimo. Allora, andiamo a segnalarvi alcuni appuntamenti. Abbiamo il Festival della Violenza Illustrata, di cui abbiamo già parlato la scorsa settimana, continua, andate a vedere il programma, appuntamento importante il 25 novembre, convegno all'Istituto Gramsci Emilia Romagna, l'Europa 60 anni dopo, tutte le informazioni sul sito www.iger.org. L'Istituto Parri organizza un'iniziativa sulle storie legate al fronte del Montenegro e all'occupazione italiana e alla giustizia militare dal 1941 al 1943 e infine una mostra in cui abbiamo mandato la nostra Olga a dirci qualcosa, a visitarla per dirci qualcosa. Sì, infatti fino a domenica in centro ci sono ben 14 mostre per fotoindustria, cioè il festival organizzato dal MAST. Le mostre sono tutte molto belle, in particolare vi vogliamo suggerire quella che è a Santa Maria della Vita, quindi praticamente in Piazza Maggiore, di Mimmo Iodice, che ha fotografato negli anni 70 alcuni momenti di vita quotidiana del lavoro minorile a Napoli e la sua vita da fotografo e militante sempre a Napoli negli anni 70. Perfetto, quindi potete passare un bellissimo sabato pomeriggio in compagnia delle fonti storiche, foto d'archivio. Per oggi è tutto, appuntamento la settimana prossima con il classico alla radio da Frey e Olga. Ciao. Ciao, buon pomeriggio. When so much people crying out for change, no idea. So what about the working class, comrade chairman? What about the working class? They bear the cross, they carry the cross, and them not go forget them tongues in Gadangs. Them not go forget them tongues. From the east to the west, to the land I love the best, the ruling class is them is in a mess. Oh yes, crisis is the order of the day. The workers them demanding more pay every day. The peasants want a lot more say nowadays. The youth them rebelling everywhere. Everywhere insurrection is the order of the day. There's a lot of people crying out for change nowadays. Nobody blame it on the black working class, Mr. Racist. Blame it on the ruling class. Blame it on your capitalist boss. We pay the cost, we suffer the loss. And we not go to get new cross, not a rust. We not go to get new cross.